in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come avete la notizia l'avete sentita anche nel GR, apre sull'annuncio che ha fatto l'Unione Europea di un possibile stop per quanto riguarda l'Unione Europea alla fusione Bayer-Monsanto. È una fusione transoceanica, quindi adesso vedremo che cosa dirà l'antitrust americana. C'è per ora un'indagine, una fusione che darebbe, come avete sentito, origine a un gruppo da 59 miliardi. In prima pagina anche il presunto, perché qui si tratta ancora solo di rumor, non di vere e proprie posizioni, il presunto passo indietro di Great Wall, il gruppo cinese che si era detto aveva un interesse per FCA, Fiat Chrysler Automobiles, ma soprattutto per Jeep, che è uno dei marchi del grande gruppo FCA. E poi vi segnalo dalla prima pagina un articolo che poi trovate a pagina 5 di Roberto Bongiorni, un approfondimento sull'Afghanistan. Sapete che di Afghanistan si parla molto in questi giorni perché il presidente Trump ha deciso, ascoltando alcuni dei suoi generali, di riaumentare il contingente americano in Afghanistan. E Roberto Bongiorni ci porta in questa guerra dell'oppio che è il petrolio, il cosiddetto petrolio dei talebani. Quando i talebani presero il potere, subito dopo l'11 settembre o secondo alcuni anche prima, proclamarono che l'oppio, in quanto contrario alla religione, di oppio non se ne sarebbe più coltivato in Afghanistan. In realtà, poiché l'Afghanistan è il maggiore produttore di oppio e quindi di tutti i farmaci e droghe oppiacee del mondo, e il 60% delle entrate dei talebani viene da queste coltivazioni, è stato fatto un bel passo indietro e adesso le piantagioni di oppio sono floride, così come è florido il commercio di oppio, il che forse riaprirà il dibattito sulla legalizzazione, non tanto la liberalizzazione, perché di fatto le droghe sono liberalizzate, nel senso che chiunque viva in una qualsiasi città o in qualsiasi centro abitato sa che le droghe si possono acquistare per l'appunto liberamente, sono però nella maggior parte dei paesi illegali, e forse appunto questo fatto che dietro al traffico di qualsiasi droga ci sia un qualche tipo di criminalità o in questo caso di terrorismo, forse riaprirà il dibattito appunto sulla legalizzazione delle droghe. Il Corriere della Sera, come la maggior parte dei giornali, apre sul terremoto di Ischia, la denuncia dopo i crolli. Naturalmente c'è tantissima cronaca, ci sono le foto dei soccorsi, in particolare dei tre fratelli, dei tre bambini, tre fratelli tra l'altro salvati a Casamicciola. Vi segnalo, poi magari lo vedremo se ci sarà tempo, a pagina 9, un approfondimento di Gian Antonio Stella, che avendo il fornitissimo archivio che sappiamo avere, adesso scopriamo che ce l'ha anche su fatti accaduti così lontano nel tempo come il terremoto di Casamicciola del 1883, ci racconta appunto cosa purtroppo non è cambiato in tutti questi anni sul fronte della prevenzione, sul fronte della costruzione e della pianificazione edilizia sull'isola e non soltanto sull'isola di Ischia. Ci fermiamo però un attimo per una prima pausa sul traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp. Grazie a chi mi incoraggia, mi fa complimenti veramente graditissimi, e invece all'ascoltatore che mi dice di tornare a letto, magari no, non posso. Tra l'altro vi segnalo, se volete, comunque molti tra l'altro ovviamente l'hanno trovata da soli, sono su Facebook e su Twitter con l'account @Giulia_Crivelli. Se volete mandarmi altri messaggi li leggo tutti e ne tengo conto sempre, di quelli positivi e naturalmente anche di quelli negativi. La prima pagina di Repubblica: Ischia, fuori norma le case crollate. Questo è il grande tema, da una parte dell'abusivismo, quindi fuori norma perché sono case appunto abusive, e dall'altra fuori norma anche perché non rispettano, anche quando non sono abusive, ma in un certo senso lo sono, le norme per le norme antisismiche. Su questo naturalmente ascolteremo un lungo dibattito che poi scemerà purtroppo, e vedremo se questa volta veramente si riesce a risolvere almeno sull'isola di Ischia e almeno in parte il problema appunto delle costruzioni antisismiche e dell'abusivismo. Ma vi segnalo la maca di Michele Serra, che riunisce un po' tutti questi temi: il fatto che giustamente se ne parli quando c'è un evento come il terremoto di Ischia e a maggior ragione quello del centro Italia, di cui domani ricorre l'anniversario solo della prima scossa che si verificò il 24 agosto del 2016. Scrive Michele Serra sulla prima pagina di Repubblica: l'impotenza del geologo potrebbe essere il titolo giusto per un saggio sullo sgretolamento italiano, non solo quello del territorio. Il geologo, solo soletto, avverte la collettività di come stanno le cose nel sottosuolo. Non lo fa per vizio, lo fa per mestiere. Altri specialisti, per esempio gli ingegneri idraulici, botanici, climatologi, provano a fare altrettanto in superficie. Analogo è il destino di tutti costoro, sospettati di essere iettatori o semplici rompiballe a seconda della latitudine, disturbatori del normale tran-tran che permette da generazioni a governati e governanti, in perfetta complicità, di costruire case di farina sul ciglio delle frane e case di fango sull'argine dei fiumi. Ignorando l'aureo principio secondo il quale fare una cosa bene e farla male, a conti fatti, costa uguale, perché dunque non farla bene? L'idea che l'abusivismo sia frutto della povertà è una truffa ideologica. È frutto dell'illegalità, dell'imprevidenza e dell'ignoranza. Spesso sembriamo, come comunità nazionale, i tre porcellini che sono finalmente riusciti a liberarsi di quello savio che aveva costruito una casa solida e certamente era almeno simpatico e allegro, ma fu il solo a salvarsi dal lupo. La Stampa, la ferita di Ischia, troppe case abusive, anche qui una fotonotizia dei soccorsi. E poi vi segnalo un bell'articolo che poi trovate interessante, che poi trovate a pagina 31, su una nuova ricerca. Credo che la bellezza o il fatto che definiamo qualcuno o qualcosa, soprattutto qualcuno, bello o bella, è un mistero, perché mai. Ieri abbiamo parlato di questo ex poliziotto soprannominato Faccia da Mostro e sono molto colpita dall'utilizzo di questo soprannome. Per contro invece ci sono le persone oggettivamente, almeno crediamo oggettivamente, definite belle. E allora da questa ricerca che ci viene raccontata da Raffaella Silipo, il mistero della bellezza perfetta. Vietato dire che la bellezza non è importante, è importantissima, non fosse altro perché da millenni incatena le vita di noi umani con il suo mistero. Abbiamo tentato di imprigionarla in una formula matematica, quella sezione aurea che governa le proporzioni del Partenone e della Gioconda. Ci siamo affannati a spiegarla con la filosofia e i festival, a riprodurla in mille modi con l'arte e la musica. Ce ne siamo innamorati pazzamente in forma di dea o di diva hollywoodiana e abbiamo provato a distruggerla, abbattendo monumenti o bruciando streghe e libri di poesia. La bellezza è importante, ma è lei a comandare. Lo sanno i belli che ci marciano da quando li fermavano per i complimenti in passeggino, ma sono destinati a patire ferocemente il tempo che passa e i segni che lascia sulla pelle. E trovate appunto tutto a pagina 31. Il Messaggero, troppi crolli per una scossa, titolo a tutta pagina, e poi fotonotizia dedicata a quel bambino che si chiama Ciro, a 11 anni, che praticamente per tutta la notte ha protetto il fratello più piccolo, e il fratello è stato estratto prima di lui, e da qui il Messaggero lo chiama appunto il piccolo eroe. Due gli approfondimenti che vi segnalo, uno di Oscar Giannino, e non devo presentarlo agli ascoltatori di Radio 24, che parla del piano Casa Italia, di cui abbiamo anche parlato ieri, parlava ieri il Sole 24 Ore con i dettagli di questo e tutti i rilievi fatti da Confedilizia su come sta procedendo questo piano Casa Italia, che era stato elaborato dopo il terremoto dello scorso anno, ma che purtroppo procede a rilento, anche perché è un piano che prevede la messa in sicurezza praticamente di tutto il patrimonio edilizio italiano e costerebbe come minimo 40 miliardi, ma forse molto di più. E quindi Oscar Giannino, appunto, i ritardi sul piano, subito Casa Italia per evitare un'altra Amatrice, perché ricordiamo che se ieri nel terremoto di Casamicciola hanno perso la vita tre persone, In quello dello scorso anno hanno perso la vita in tutto 299 persone, 141 più della metà delle quali nella sola matrice. E poi vi dicevo il secondo intervento di Enzo Boschi, sismologo, cominciamo dalle scuole poco sicure, quindi, perché poi c'è tutto il tema a proposito di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, non solo quello privato ma anche quello pubblico. Enzo Boschi si concentra sulle scuole, ma abbiamo visto come anche l'ospedale di Ischia, l'ospedale Rizzoli, sia a rischio sismico, tanto che proprio nella notte in cui sarebbe stato più necessario avere un pronto soccorso aperto, l'ospedale è stato di fatto evacuato e il pronto soccorso allestito all'aperto. Avvenire torna sull'appello di Papa Francesco, che scrive sulla prima pagina l'Avvenire, ha scosso la politica, l'appello di Papa Francesco perché il Parlamento approvi la legge sullo ius soli. Le buone ragioni, poi c'è un altro, si potrebbero immaginare altre varianti di questa legge che in qualche modo regolarizza e dà la cittadinanza, o meglio, dà la cittadinanza a chi nasce sul suolo italiano. Questa legge è stata votata alla Camera e il 12 settembre verrà votata in Senato, ma come abbiamo visto nei giorni scorsi non ci sono molte probabilità che passi. Naturalmente in prima pagina anche il terremoto di Ischia, con questo bilancio provvisorio di 2 morti, 42 feriti e 2600 sfollati. Anche in questo caso due approfondimenti interessanti, li trovate a pagina 3 dell'Avvenire. Uno si intitola Governare il territorio senza se e senza ma, perché secondo Antonio Maria Mira sono state dette parole inopportune sull'abusivismo da parte dei sindaci dell'isola. I comuni di Ischia sono 7, praticamente tutti i sindaci di questi comuni hanno detto: ma non è vero, non c'entra l'abusivismo con questo, semmai si tratta il problema principale che sono case vecchie. Invece Angelo Scelzo, il ruolo della Chiesa e l'impegno al servizio della comunità, e in questo caso naturalmente siamo sull'Avvenire, si parla di come sia importante l'impegno dei parroci, in questo caso di Ischia, ma anche un segnale per esempio dall'arcivescovo di Napoli, Crescenzo Sepe, che è presidente ovviamente dei vescovi della regione. Il giornale Morti abusive, terremoto a Ischia. E anche in questo caso fotografia di Ciro appena estratto dalle macerie e il commento di Giordano Bruno Guerri: aggrappiamoci a Ciro, eroe in un paese senza regole. Libero: se la casa abusiva crolla non è colpa del terremoto, naturalmente anche qui un riferimento diciamo polemico, ma giustamente polemico, con quelle che abbiamo visto sono state le prime reazioni dei sindaci. Perché purtroppo a Ischia ci sono i comuni con il più alto tasso di abusivismo, se non è proprio quella la causa dei crolli è sicuramente una concausa, a dire che non c'entrano niente appunto poi porta a titoli di questo genere. Qui ci sono due commenti, uno di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che ricorda il terremoto del Friuli e di come lì la ricostruzione resta ancora oggi un modello alla fine degli anni 70, e poi di Renato Farina, che invece parla del terremoto più recente, quello dello scorso anno: Amatrice insegna non contate sullo Stato. E qui il riferimento è purtroppo ai bilanci che si cominciavano a fare ancora prima che il terremoto diventasse fatto di cronaca con il terremoto di Casamicciola a Ischia, e si cominciavano naturalmente a fare i bilanci a un anno di distanza. Come abbiamo detto, domani è esattamente l'anniversario della prima scossa ad Amatrice, perché purtroppo a distanza di un anno la ricostruzione è ancora indietro. Circa poco più del 10% delle casette sono provvisorie, sono state consegnate, e soprattutto solo il 10% delle macerie sono state rimosse. In prima pagina sul Libero anche un richiamo a quello che avete sentito anche nei GR, c'è questa uscita di ieri del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, che dice, ha detto: la mia opinione, aggiungendo che la sua opinione vale come quella di qualunque altro, non è proprio così, essendo lei il ministro dell'istruzione, secondo me, ma ha detto: io alzerei l'età della scuola dell'obbligo a 18 anni, in questo momento sappiamo in Italia è a 16. La verità, morire di abusi edilizi, qui addirittura Maurizio Belpietro nel suo articolo di prima pagina dice lo scandalo di Ischia, un sisma del quarto grado uccide solo se le case non sono a norme, abbatterle però costa voti, quindi tutti chiudono gli occhi e poi versano lacrime di coccodrillo. Il Fatto Quotidiano, l'isola degli abusi, un titolo tutto maiuscolo in rosso. La casa crollata sui tre fratelli estratti vive dalle macerie aveva due piani di troppo su tre. Questo sono il tipo di abusi edilizi appunto sull'isola di Ischia in Campania e non solo, perché purtroppo la Campania detiene in tema di abusi edilizi dei tristi record. Tra l'altro sentivo stamattina un preparatissimo direttore generale del WWF Italia che diceva che tra l'altro la Campania ha anche una densità di popolazione altissima e che Napoli, per esempio, che è una città comunque a sua volta a rischio sismico, ha una densità, e questo è un dato che mi ha veramente colpita, addirittura più alta di quella di Hong Kong, 8.000 persone per chilometro quadrato contro i 6.000 di Hong Kong. Dicevamo quindi il Fatto Quotidiano, l'isola degli abusi, in prima pagina anche tutta la questione delle banche, dei salvataggi delle banche venete collegate alle indagini su questi salvataggi, ma anche su quello di Monte dei Paschi di Siena e il ruolo che ha avuto Banca Italia, il non ruolo quasi si potrebbe dire, perché molti ispettori sono accusati di non aver vigilato come avrebbero potuto e dovuto. Il Manifesto, il terremoto è innocente, quindi tutto sommato è parole diverse, ma l'idea è la stessa, cioè che non viene ripreso questa prima reazione dei sindaci, che però non è giustificata né dai fatti né dalla scienza. E vi segnalo, prima della pausa sul traffico, facciamo in tempo, vi segnalo la prima pagina della Frankfurter Allgemeine, il giornale tedesco, perché è il giornale di quelli che ho guardato stamattina dove la parola Trump ricorre di più, e anche quella Afghanistan. La questione dell'Afghanistan per la Germania è molto delicata per molte ragioni, una delle quali è che ha tantissimi immigrati o rifugiati afghani, alcuni sono stati rimpatriati quando il paese veniva considerato, fu dichiarato dal Ministero degli Interni tedesco sicuro a sufficienza per autorizzare i rimpatri. Naturalmente si scopre che non è esattamente così, c'è questa escalation militare americana che poi dà però l'occasione alla Frankfurt anche di parlare di tutte le altre mosse recenti di Trump in politica estera. Ci lasciamo un attimo per una pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, all'ascoltatore che mi chiede su quale giornale era pubblicato l'articolo dove si parlava degli ingegneri idraulici, è la Maca di Michele Serra sulla prima pagina di Repubblica, e poi all'ascoltatore che invece mi chiede, non so perché stamattina non avevo ancora nominato i gatti, quanti gatti ho, ne avevo 4 fino a un mese fa, adesso ne ho 5 perché ne ho adottata / salvata un'altra piccolina. E invece all'ascoltatore che mi dice dovrebbe completare l'informazione dicendo che quando i talebani erano al governo in Afghanistan avevano ridotto l'oppio quasi a zero, questo l'ho detto, ma che poi è aumentata con la nostra occupazione, io non so se si sia davvero mai riusciti a occupare nel senso di controllare l'Afghanistan. Sta di fatto che i talebani hanno capito che l'oppio è comunque una fonte di reddito di cui non possono fare a meno, e quindi le coltivazioni sono ricominciate. Poi c'è questo ascoltatore Alessandro da Brescia, o Ale da Brescia, e non è la prima volta che manda questo messaggio, è rimasto molto colpito da quando ho letto un articolo dove si diceva che gli insegnanti italiani sono quelli che fanno più vacanze tra gli europei, lo ribadisco, gli insegnanti e anche gli studenti, e chiede perché non si dice che lo stipendio è però tra i più bassi. Va bene, diciamolo, è uno stipendio basso, in effetti questo paese ha bisogno, continua ad aver bisogno, anche se ogni governo, praticamente ogni legislatura ne fa una, di una riforma della scuola. Abbiamo visto anche Valeria Fedeli che ieri addirittura ha ipotizzato appunto l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore. Perché c'è la fotonotizia della prima pagina di Esteri è dedicata a questo incontro che c'è stato in Russia tra il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, e il ministro degli esteri Sergei Lavrov, e poi c'è stata anche la visita con il patriarca ortodosso. E questo è, tutti ci auguriamo, anche un segnale ogni volta che capi di Stato o soprattutto di chiese si incontrano, si spera sempre anche che parlino di tolleranza maggiore, di maggior dialogo tra le religioni, che includa naturalmente, in questo caso parliamo soprattutto di religione cristiana, ma che includa naturalmente anche l'Islam. E vi segnalo un articolo di Nicole degli Innocenti da Londra. Abbiamo parlato delle possibili barriere antiterrorismo che possono essere messe nelle nostre città e che in altre città ci sono già. Da Londra appunto questo dibattito, perché anche Londra ha dovuto interrogarsi su questo, quelle barriere antiterrorismo che dividono le città europee, da una parte la sicurezza, dall'altra l'estetica e problemi di circolazione. Londra ha eretto barriere di cemento e piloni retrattili, Nizza ha investito 30 milioni, diversa la linea di Bruxelles, Berlino e Barcellona. La prima pagina di Imprese e Territori è invece dedicata a un tema molto industriale, che è quello, noi sappiamo, siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa dopo la Germania, e quindi l'economia italiana è strettamente legata non tanto ai servizi come può essere il Regno Unito, o magari al turismo come possono essere altri paesi, ma appunto all'industria. Il mercato interno è la spinta decisiva per la meccanica, che è una delle voci principali della nostra industria, quindi ci sono tutti i dati nuovi. Luca Orlando ci spiega che addirittura le linee di produzione, e questo è davvero un segnale di ripresa, sono sature per i prossimi 9-12 mesi. Dalle pagine interne di Imprese e Territori vi segnalo un articolo sul un altro settore importantissimo per l'Italia, anche qui industriale e allo stesso tempo molto creativo, che è il design, il legno arredo, che in questo momento ha una impennata dell'export verso il Messico. Questi dati sul Messico sono abbastanza impressionanti, perché il Messico è anche un paese con tantissime contraddizioni al suo interno, anche economiche, e dei problemi di criminalità soprattutto nelle grandi città enormi, però anche un paese che in qualche modo economicamente si sta sviluppando, anche molti marchi del lusso hanno cominciato a considerarlo un mercato importante. L'arredo scommette sul Messico, secondo le stime, ci spiega Giovanna Mancini, vendite in aumento del 38,5% nei prossimi 4 anni, e questo già oggi il Messico è, stando ai dati del 2016, il quarto mercato per destinazione dei mobili italiani dopo Cina, Stati Uniti e Belgio. Poi la storia di Vibram, che è un colosso, il nome forse potrebbe sembrare straniero, ma in realtà è semplicemente l'abbreviazione del nome e del cognome del suo fondatore, che era Vitale Bramani. E oggi questa azienda, che tra l'altro ha chiuso il 2016 con ricavi per 170 milioni, lavora non soltanto per le scarpe sportive, per le suole delle scarpe sportive o di quelle delle scarpe da lavoro, ma anche per scarpe per marchi appunto della moda e del lusso, e quindi non soltanto da utilizzare per attività sportive. Una bella storia di un'azienda tra l'altro assolutamente globalizzata. L'agenda del professionista, siamo arrivati alla puntata 17, professioni e società, attività professionali organizzabili in SPA, trovate tutto a pagina 16 del Sole 24 Ore. Vi dicevo, l'approfondimento di Gian Antonio Stella sul terremoto di Casamicciola del 1883, tanto io non lo sapevo, ma c'è anche persino un modo di dire per indicare qualcosa che è particolarmente complicato, confuso e difficile da risolvere, si dice è una casamicciola. E il commento, e con questo rispondo anche all'ascoltatore che chiede, ma De Luca, che ieri parlava di abusivismo, non è quello che ha varato una sanatoria pochi mesi fa? E qui il commento, appunto, la ruspa e i due volti di De Luca, di Marco De Marco, lo trovate a pagina 9 del Corriere, accanto al lungo articolo di Gian Antonio Stella. È sempre lo stesso De Luca, solo che dice cose diverse a seconda delle circostanze. In primavera, quando la sua legge a favore dell'abusivismo di necessità, questo è piccola digressione, abusivismo di necessità, abbiamo sentito parlare di evasione di necessità, adesso abbiamo l'abusivismo di necessità. Era ancora in discussione, ironizzava sul partito della ruspa, diceva: dovremmo forse comprare un'isola nell'Egeo per sversare lì tutti i materiali di risulta? Il governatore della Campania aveva deciso di fargliela vedere a quelli degli ideologismi e delle inconcludenze operative. Contro le demolizioni, ecco una vera innovazione amministrativa, non un condono, guai a chiamarlo così, piuttosto una sanatoria sociale. E pochi giorni fa, quando il governo ha impugnato la legge campana, il tono era ancora di sfida. Mi aspetto che già domani, per procedere alle immediate demolizioni, sia impegnato il genio militare. Ma ieri, di fronte ai crolli, alle vittime e agli sfollati di Casamicciola, l'abusivismo è di colpo tornato a essere un'emergenza. Pensate, dice De Luca, solo in Campania ci sono 70.000 alloggi abusivi e ora occorre il massimo rigore. E a Ischia? Qui sono stati compiuti abusi di tipo criminale, altro virgolettato di De Luca, con strutture in aree a rischio idrogeologico che vanno abbattute prima possibile. Teniamocelo via questo articolo e vediamo se nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, De Luca cambierà di nuovo idea. Sul Corriere della Sera anche un approfondimento di Lorenzo Cremonesi che cerca di capire, abbiamo sentito nei giorni scorsi la diminuzione, i numeri sulla diminuzione degli sbarchi dalla Libia, e Lorenzo Cremonesi ci spiega una milizia dietro il calo degli sbarchi. La Brigata 48 di Sabrata blocca le partenze dei migranti dalla Libia, i traffici del passato, gli accordi con Serrai e l'Unione Europea. Non è mai niente mai come sembra, i numeri vanno sempre spiegati, vanno sempre indagati. La Repubblica continua il suo viaggio che aveva iniziato prima del terremoto di Casamicciola nei paesi colpiti dal terremoto dello scorso anno, e oggi, la puntata di oggi, ieri abbiamo visto era Amatrice, oggi invece Arquata del Tronto nelle Marche, dove ci sono ancora molte persone, come si vede anche dalle foto pubblicate a pagina 6 e 7 della Repubblica, ancora molte persone che vivono nelle tende. Torniamo un attimo sul governatore della Campania De Luca. Pagina 7 della Stampa, parlano in due, come se appunto De Luca, vabbè, abbiamo sentito, ci sono contraddizioni che risalgono a pochi giorni fa, ma parla anche Bassolino, che della Campania è stato governatore per tantissimi anni, e dice: altro che stato di necessità, è una bufala inaccettabile, giù le case a rischio, aiuti agli indigenti. Ma veramente sembra, ma dove avete vissuto? In una campagna di un universo parallelo quando era governatore? E invece, appunto, il presidente De Luca, colpa dell'ambientalismo che ferma tutto da 25 anni. Mai parlato di condoni, ma si deve agire. Sì, infatti aveva creato questo, uno dei suoi tanti ideologismi, non lo vuole chiamare condono, ma sanatoria sociale. Come sempre la Stampa riesce a, dico come sempre perché secondo me la Stampa veramente è tra i quotidiani generalisti quello che scova o approfondisce storie che magari sugli altri giornali passano un po' in secondo piano. In questo caso si tratta di una svolta in India, a New Delhi. India, la vittoria delle donne, fuori legge il divorzio istantaneo. La Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la pratica diffusa tra i musulmani. Gli uomini non potranno lasciare la moglie pronunciando tre volte una parola. E si spiega appunto quali sono anche le altre emergenze nazionali in fatto di diritti negati. Sull'uxoricidio, per esempio, un'inchiesta del corrispondente del New York Times, Ellen Barry, ha rivelato un caso esemplare. Una moglie viene uccisa a bastonate in testa e sostituita subito da una più giovane. La polizia accetta bustarelle per farla sembrare una caduta dalle scale, con l'avallo della madre dell'assassinata, ricattata e plagiata. Ma questa volta la confessione del marito e la rivelazione della copertura vengono registrate e pubblicate in prima pagina. È un caso tra decine di migliaia. Quindi ancora tanti, ne abbiamo parlato anche ieri, tanti, molto lungo il percorso perché le donne, anche in Italia, siano più tutelate. A proposito sempre della Stampa e di notizie che non troviamo su altri giornali, Abbiamo visto nei giorni, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, molte elezioni in Africa. Ora anche in Angola si vota, oggi ci sono le presidenziali in questo paese che è sempre più legato alla Cina. Sapete che la Cina ha tantissime risorse ma poche materie prime, e per questo per esempio ha, secondo alcuni, proprio colonizzato l'Africa, che invece di materie prime è ricchissima. E questo Lorenzo Simoncelli, inviato in Africa, ci racconta: hamburger a 30 euro e bidonville, l'Angola fra business e dittatura, boom di greggio e soldi cinesi. Luanda, la capitale dell'Angola, è la città più cara al mondo. Pensate, un hamburger a 30 euro, qui credo che l'hamburger normale di McDonald's costi 1 euro. Passiamo invece al Messaggero, perché dicevamo è tempo davvero di bilanci, oltre naturalmente a quello più recente di Casamicciola, del terremoto di Casamicciola. Per quello del 2016, ieri è stato reso noto un rapporto della regione, il Lazio, della regione Lazio, che è una delle regioni più colpite. Sono state rimosse 100.000 tonnellate di macerie, ma abbiamo visto che sono solo il 10% di quelle che andranno rimosse prima o poi, e è stato annunciato dal governatore del Lazio e da molti altri politici il 90% delle casette entro la fine dell'anno. Ma in realtà, persino sulle cifre di ciò che è stato fatto, di ciò che deve ancora essere fatto, scrive il Messaggero, è appunto guerra di cifre. Una notizia secondo me triste che viene dalla Spagna, dalle indagini sulla strage della scorsa settimana a Barcellona, perché si inasprisce lo scontro tra la capitale Madrid e Barcellona. Come abbiamo ricordato anche ieri, è imminente, è già in programma, anche se la Corte Suprema spagnola ha dichiarato che non sarà necessariamente un referendum che poi potrà avere delle conseguenze pratiche, però la Catalogna, che è la regione in cui si trova Barcellona, ha in programma questo referendum perché alcuni esponenti politici chiedono l'indipendenza. E ora le polizie delle due città, le autorità delle due città si accusano a vicenda. La strage è colpa vostra, Madrid, dice Madrid accusa Barcellona. Questo è il titolo dell'articolo di Mauro Evangelisti a pagina 11 del Messaggero. Ci fermiamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora buon mercoledì, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, anche a chi mi dice meno gatti e più vere notizie. Non so esattamente cosa voglia dire di notizie vere, credo di averne lette tante, di gatti ne ho 5, sicuramente sono di più le notizie vere. A proposito invece di notizie false, così appunto involontariamente questo ascoltatore mi dà lo spunto per parlarvi di questo articolo a pagina 23 di Salute e Benessere, e anche per anticiparvi, ma forse qualcuno di voi l'ha sentito, che da settembre Nicoletta Carbone nel weekend avrà un programma proprio dedicato alle fake news sulla salute. E qui il Messaggero ci parla della bufala acqua e limone. Da mesi si è diffusa l'abitudine di bere a digiuno questo drink tiepido per dimagrire, un po' come da tanti anni si dice che il pompelmo faccia dimagrire o l'ananas. In realtà non ci sono prove scientifiche e in molti casi può essere anche dannoso. Quindi se piace questo tipo di limonata, benissimo, a me per esempio anche piace, però si sappia che per esempio l'acido citrico contenuto nei limoni può deteriorare lo smalto dei denti, aggravare disturbi gastrici come l'ulcera, e soprattutto non è una scorciatoia per dimagrire. L'Avvenire torna sulla questione che l'Avvenire segue da vicino con costanza e con coerenza, che è quella dei giochi d'azzardo e del pericolo delle ludopatie. Azzardo è boom di imprese, più 11%, crescono aziende e investimenti, trovate a pagina 13 dell'Avvenire. Le macchinette non temono la crisi, negli ultimi 5 anni il settore ha fatto segnare un balzo del 48,2%. A settembre servono le risposte attese da associazioni e società civile. Un altro tema di cui, quando il Parlamento, i nostri parlamentari finalmente rientreranno dalle ferie, dovrebbero occuparsi. Un tristissimo bilancio su Libero di tutti i morti e i feriti degli attentati firmati dal fondamentalismo islamico, dal terrorismo di matrice islamica. La guerra all'ISIS, Allah dacci il morto quotidiano, il 2017 anno record del jihad. Questi dati li riassume, li racconta e li commenta Noemi Azzurra Barbuto a pagina 10 di Libero, e così scopriamo che per esempio i morti dal 2004 a oggi sono 595, i feriti sono 4321. A partire dal 2015 le rivendicazioni sono state tutte dell'ISIS, prima naturalmente c'era Al-Qaeda, che sappiamo ha lasciato poi il posto all'ISIS. Il Libero è anche il giornale che dà più spazio, la notizia la trovate ovunque, forse l'avete anche vista su internet, a quello che ha detto ieri Luigi Brugnaro, che è il sindaco di Venezia, che probabilmente gli è scappato, però intanto le parole sono uscite, sono state sentite e ora vengono anche riportate. Perché ieri al meeting di Rimini, in corso, il meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini, come ogni anno alla fine di agosto, ha detto: noi a Venezia ai terroristi che spariamo, cioè gli spariamo. E poi ha detto: non era mia intenzione offendere la comunità musulmana, si è scusato su Facebook. Intanto però queste parole gli erano uscite dalla bocca. Sulla Verità, uno dei ritratti di Giancarlo Perna questa settimana oggi è di Rosario Crocetta, l'attuale governatore della Sicilia. Non è ancora chiaro se si ricandiderà alla guida della Sicilia alle imminenti elezioni regionali. L'eroe dell'antimafia ha fatto fallire la Sicilia, questo è il titolo del ritratto di Perna, è l'esponente peggiore mandato a Palazzo dei Normanni, che è la sede dell'Assemblea regionale siciliana, dall'insipienza politica. Governa una regione che ha 8 miliardi di debiti ed è tecnicamente in bancarotta, perderà le elezioni e strillerà che a cacciarlo sono state le coppole, cioè la mafia. Vi dicevo dell'Afghanistan, che oggi in realtà sui giornali italiani non ha tanto spazio. La Verità però, con Alessandro Rico e pubblicando una tabella molto chiara, spiega: Trump riaccende la guerra in Afghanistan, il presidente manderà altri soldati per contrastare i talebani. Era il primo test dopo l'uscita di scena del suo consigliere Steve Bannon, mente della destra radicale. Tra l'altro vi dicevo, proprio i numeri li vedete chiaramente, come sono stati come nel settembre del 2011, quando subito dopo nel periodo di picco c'erano oltre 100.000 soldati sul campo, la maggior parte dei quali militari in servizio, una piccola parte di Guardia Nazionale, erano scesi a 13.400 in giugno e ora probabilmente risaliranno. Vi dicevo dei rapporti tra l'Africa e la Cina. A pagina 19 della Verità, l'Africa è terreno di conquista per la Cina. Non ci stiamo accorgendo del mutamento in corso. Pechino è pronta a invadere paesi ricchi di materie prime e oggi, grazie all'interscambio commerciale con il continente, è il secondo attore globale. Davanti c'è solo l'Unione Europea, che però è fatta da 28 paesi, come sappiamo. Vi segnalo dal Manifesto un altro tema interessante, sempre sull'Afghanistan, dal Fatto Quotidiano, che riprende un articolo uscito sul Washington Post che elenca i progetti fallimentari della missione, diciamo, di pace, oltre a quella militare in Afghanistan, degli americani, che hanno stanziato tantissimi fondi. Come spesso accade, però, quando i fondi poi arrivano nel paese che dovrebbero aiutare nella ricostruzione o in progetti sociali e economici locali, poi non si riesce a usarli bene. E quindi, per esempio, erano stati stanziati 8,5 miliardi per estirpare le culture di papaveri e, come abbiamo visto, sono più fiorenti che mai. Vediamo qualche notizia un pochino più, così, più curiosa. E allora dal Corriere della Sera, dalle pagine di Milano, questa bella storia, c'è una serie di incontri che i giornalisti del Corriere della Sera stanno avendo con persone che non sono nate a Milano, magari non sono neanche nate in Italia, ma hanno scelto Hanno scelto l'Italia e Milano come residenze. Tra questi oggi c'è il ritratto di José Muñoz, che vive a Milano dal 1972, un grandissimo disegnatore argentino, allievo di Hugo Pratt, il creatore, l'inventore di Corto Maltese. Marta Ghezzi ce lo racconta poi. I colori di questa città mi commuovono, però vorrei più verde. Tra l'altro vive in una delle zone più affascinanti di Milano, che è il Naviglio Grande. E appunto poi trovate questo articolo che si intitola "Qui ho trovato i miei colori". Dalle pagine di Repubblica invece Giuliano Aluffi ci racconta di una ricerca condotta in uno zoo svedese sui rapporti tra animali e scimpanzé, che sono tra i nostri più stretti parenti nel mondo animale dal punto di vista del corredo genetico, ma non solo. Esseri umani e scimpanzé, l'irresistibile gara a imitarsi. È l'identica attitudine prosociale, un desiderio di amicizia che travalica i confini della specie. Ancora grazie agli ascoltatori che mandano messaggi così presto al mattino, anche a chi mi dice che sarebbe meglio farsi un fidanzato invece di incrementare il numero dei gatti. Non lo so, io dai miei gatti ho tante soddisfazioni, non so se posso dire altrettanto dai fidanzati, ma scherzo, sì, forse sarebbe meglio un fidanzato in più, un gatto in meno, non lo so. Dalla Repubblica vi segnalo un interessantissimo excursus di Paolo Mauri sul ruolo che in passato gli scrittori hanno avuto nelle case editrici, ma non in quanto autori di libri, ma perché partecipavano attivamente alla vita della casa editrice, alle scelte editoriali della casa editrice. Calvino fu direttore, per esempio, di una collana di Einaudi, quando gli editori erano gli scrittori. Da Pavese a Calvino, tanti narratori del Novecento hanno lavorato come editor o creatori di collane, con molte scoperte celebri e alcuni rifiuti clamorosi. Ora si riscopre quell'epoca d'oro. E poi invece dall'Avvenire un divertentissimo articolo sull'uso della punteggiatura, che è sicuramente una delle cose più difficili che ci siano per chiunque debba scrivere, e sappiamo anche quanto il web abbia un po' rivoluzionato l'uso della punteggiatura. Punti, virgole e errori d'autore, dalla lineetta evidenziatrice di Foscolo ai 6 puntini di sospensione di Manzoni. Sapete che regola vorrebbe che fossero massimo 3 i puntini di sospensione. Scrittori e poeti hanno giocato con la punteggiatura aggirando le regole. Oggi sul web, sì, lo sappiamo, è boom di punti esclamativi e interrogativi. E c'è questa analisi di un linguista che ci appunto approfondisce questa punteggiatura. Ricordo tra l'altro che qualche anno fa in America uno dei best seller si chiamava proprio, credo, Virgola, ed era dedicato solo alla punteggiatura. Il Foglio ha moltissimi approfondimenti come ogni giorno. Il Foglio è di fatto un giornale di approfondimento. Oggi sono esattamente 6 pagine, mi sembra, no, 12 pagine. E l'articolo del direttore è dedicato a Trump, che prende spunto da quella foto di cui abbiamo parlato ieri, quella in cui Trump guardava l'eclissi senza occhiali. Poi ce ne sono anche alcune in cui però insieme alla moglie la guardava, come si deve fare, con degli occhiali. Il suggestivo ma per nulla piacevole evento dell'America che guarda l'eclissi di Trump senza occhiali protettivi. Quindi appunto un riferimento anche alle difficoltà che sta avendo in questo momento il presidente Trump. Era l'ultima segnalazione però per oggi. Un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti gli ascoltatori per i messaggi, per l'ascolto, per tutto. A domani e buona giornata da Giulia Crivelli.